ringrazio ancora per la partecipazione. Ricordo che la biblioteca solitamente prepara anche una bibliografia. Chi vuole poi approfondire certi argomenti, noi abbiamo dei libri, possiamo procurarne degli altri. Il nostro lavoro e il nostro compito è anche questo, insomma. Grazie. Beh, solo due parole, ci siamo già incontrati, ne abbiamo parlato sabato sia sulle passeggiate sia poi nella sala dell'Eurac, quando abbiamo assistito a quel film che è stato organizzato e prodotto dalla nostra associazione a livello nazionale proprio in occasione della giornata. I tempi sono stretti, quindi lascio la parola ai nostri soci che ci racconteranno un momentino le esperienze personali importanti di quello che può essere il rapporto sia con la città sia col passato per quanto riguarda la nostra triste esperienza. Volevo soltanto sottolineare due aspetti che mi sembrano importanti e che leghino il problema anche dell'Alto Adige con il problema della Dalmazia e dell'Istria e di Fiume. E cioè proprio il fatto di come alle volte per casi della sorte il destino si accanisca su determinate regioni piuttosto che altre, nelle guerre e con i risultati delle guerre, cioè abbiamo avuto, possiamo dire tranquillamente, che forse la prima guerra mondiale l'abbia persa più l'Alto Adige che il resto della confederazione austriaca, germanica, eccetera, che ci combatteva. E quindi chi ha subito più danni poi sono stati gli altoatesini con la perdita con l'essere accorpati in un'altra nazione. Forse hanno avuto un esito più felice di quanto potevano essere quello della nostra gente, sicuramente hanno avuto anche dei problemi nel periodo del fascismo con il forte nazionalismo che ci è stato imposto, e sicuramente ci sono stati anche dei paralleli nelle nostre terre nel momento in cui abbiamo avuto questo risultato, dove effettivamente la nostra gente è quella che ha pagato il peso più duro e più grosso della seconda guerra mondiale. Si rideva prima e si diceva che praticamente i danni di guerra verso l'ex Jugoslavia l'abbiamo pagata noi con le nostre case, oltre che con le decine di migliaia di morti che abbiamo avuto e i 350.000 esuli. Ma proprio si guardava il fatto che l'ultimo schiaffo morale, dopo tutti quelli che avevamo accennato, cioè il fatto si può accettare di essere anche seviziati, uccisi e scacciati da, tra virgolette, il nemico. Ciò che non abbiamo mai accettato e che non riusciamo ad accettare ancora, pur perdonando, perché siamo dei cristiani e continuiamo ad accettare e perdonare la situazione, è stato l'accoglienza non fraterna, ma d'astio e con cattiveria che è stata portata verso le nostre persone quando giungevano nella patria, e certamente non per portare del danno alla madre patria, ma per cercare un conforto e cercare un rifugio. Ciò che ci ha dispiaciuto ancora di più è stato l'abbandono poi di quella parte di territorio che si poteva recuperare, che non si è voluto far ritornare all'Italia, e quindi si è regalato per questioni di equilibrio interno nei confronti di una sinistra che non accettava questo tipo di soluzione, cioè non ammetteva che qualcuno fosse scappato dal paradiso comunista per venire al di qua in Occidente, e specialmente poi nei rapporti con l'ex Jugoslavia, che in quel momento si era tolta dall'asse di Stalin e si era portata più verso un comunismo non allineato, e quindi una situazione che si cercava di favorire e quindi di non inimicarsi proprio per il pericolo che la cortina di ferro potesse arrivare fino ai confini dell'Italia, dell'Italia così ridotta. Ma ciò che diciamo è stato il secondo schiaffo. Il terzo praticamente di questi giorni, l'ultima finanziaria ha ridotto da 33 a 15 euro il contributo INPS sulle pensioni dei nostri profughi. In più non ha neanche accettato una norma costituzionale, quella di poterlo avere poi il contributo anche sugli anni passati, ma parte dal momento in cui si presenta la domanda. E poi la cosa più triste ancora, per i danni di guerra oggi come oggi abbiamo tre persone che hanno ancora migliaia di domande da valutare e quindi si tende a procrastinare il più possibile quei fondi che erano stati stanziati nel 2001 e si spera poi che quando finalmente quei pochi che resteranno vivi, perché sappiamo l'età della nostra gente, che anche i più giovani, tra virgolette, partiti a 18-20 anni dalla propria terra, ora sono oltre gli 80, oltre i ragazzini, i piccolini che sono venuti, quelli che avevano effettivamente le proprietà sono in via d'estinzione, probabilmente si calcola sul fatto dell'età il modo di recuperare del denaro. E poi si spera che poi verrà prodotta questa legge che possa garantire il pagamento dell'ultima fase degli arretrati. Quindi questa è la situazione, questo è grazie che ci ha sempre dato l'Italia. E questo lo devo dire con profonda amarezza, proprio perché parlo della gente che è sempre stata, si è sentita italiana, ama questa Italia e purtroppo ama continuamente incompresa e non ricambiata. Questa è la tristezza del giorno del ricordo. Quindi speriamo che la storia poi possa essere più benevola nei nostri confronti e che finalmente dopo questo oblio immeritato si possa ragionare con pacatezza e con giustizia su ciò che è avvenuto, più che altro non per avere dei riconoscimenti che non ci interessano, ma più che altro perché le generazioni future possano conoscere una parte della storia e perché possa essere di monito ed esempio per chi un domani può su queste basi capire quanto possa essere pericoloso un certo atteggiamento politico, un certo modo di amministrare la giustizia, la storia, la politica. Quindi lascio adesso la parola ai nostri cari amici e vi do soltanto un piccolo cenno come discorso personale legato a mio nonno quando era qui a Bolzano, che prima di diventare commissario del governo venne mandato qui proprio e si occupò delle questioni dei rioptanti e quindi venne una delegazione, c'era il Magnago con alcune delegazioni dei suoi amici di partito che venivano a perorare la causa di quelli che stavano venendo. E mio nonno aprì un armadio che c'era nell'ufficio e li fece vedere il manifesto Zurich zur Heimat, perché proprio uno come noi poteva capire quanto poteva essere importante per chi aveva perso la patria poterci ritornare. Proprio lui che non poteva neanche portare un fiore sulla tomba della figlia a Trieste, a Fiume. Grazie signori, buonasera. Due righe di prefazio. Il mio intervento l'ho scritto perché alla mia veneranda età i miei neuroni non sono più vispi e baldanzosi e qualche dimenticanza potrebbe purtroppo succedere. Mi scuso per questa mia esposizione letta, ma forse così risulta più chiara e comprensiva. Del resto ho visto che anche il nostro Presidente della Repubblica legge e il nostro Papa ugualmente legge i suoi scritti. Modesto ragazzo. Modesto. Quindi ho detto posso farlo. Sei in una botte di ferro, sì. Lo fanno loro. Dunque io sono esule di quella parte d'Italia venduta, anzi regalata all'allora Jugoslavia, oggi Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro e altre mini repubbliche della penisola balcanica. Gli stessi esuli, ma anche storici, giornalisti e scrittori hanno raccontato la nostra storia, sia su carta stampata che a mezzo della radio e della televisione, in maniera più o meno aderente alla realtà, ma anche purtroppo in maniera a volte molto partigiana. La stessa nostra storia, in questi ultimi anni, l'ha fatta da padrona. Viene esaminata in ogni particolare, con interesse quasi morboso. Dopo più di 60 anni di silenzio, sia da parte degli organi governativi che da parte della stampa, Oggi tutti vogliono sapere cosa sia successo a noi, fratellastri e non fratelli, della sponda orientale dell'Adriatico. Oggi che il velo del silenzio è stato rotto, grazie a una legge voluta dal precedente governo, tutti corrono a sviscerare il problema esuli e foibe. Premetto che da una mia personale ricerca genealogica, per conoscere le mie radici, ho potuto risalire al 1650, quando un mio avo, di nome Josefo Giuseppe, da cui pare il mio nome Soppa, giureconsulto di origine dalmata, trasportò la sua famiglia dalla Dalmazia a Lussino, dove si era formata una marineria che trafficava, protetta dalle navi veneziane, con il vicino Oriente e il Mar Nero. I miei avi, quindi, da Legulei, si sono trasformati in caratisti, caratista sarebbe un proprietario di navi, ed in comandanti che facevano viaggi commerciali anche con l'estremo Oriente e la Cina e ad Occidente con le Americhe. Quanto sopra, per precisare che le nostre radici le abbiamo in Dalmazia, almeno le mie, e la nostra parlata, la nostra cultura, è quella che Venezia portò lungo tutta la costa. All'interno, le tribù e le etnie slave, sotto la dominazione turca, cercavano una supremazia che apparve, per brevissimo tempo, sotto la corona ungherese. Per l'esattezza, e qui c'è una stampa, per l'esattezza dirò che la Dalmazia è solo quella piccola striscia di terra della Balcania lungo la costa, mentre tutto l'interno faceva parte allora della mezza luna turca ed oggi delle repubbliche balcaniche. Questa striscia ha avuto l'influsso di Venezia perché la Serenissima costruì città, porti, castelli di difesa per i punti d'appoggio ai suoi traffici marittimi. Il Risorgimento italiano infiammò il cuore e le menti delle popolazioni della costa orientale, poste allora sotto la corona asburgica, e gli irredentisti guardavano l'Italia che si scrollava da dosso il giogo straniero. Mio bisnonno Marcantonio volle partecipare in sodo a questa primavera, acquistando migliaia di cartelle della Giovane Italia e della Lega Nazionale per sostenere la causa mazziniana, perdendo alla fine tutto ciò che aveva impegnato: navi, case, terreni. L'italianità di quelle zone era tanto radicata nelle genti dalmatiche che lo scrittore letterato e patriota Niccolò Tomaseo, nato a Ragusa, oggi Dubrovnik, collaborò alla compilazione di un dizionario della lingua italiana. Io sono nato a Pola, in Istria, da genitori istrodalmati e ho vissuto tutta la mia infanzia, l'adolescenza, la giovinezza, cullato dalla parlata e dalla cultura italiana. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, improvvisamente avrei dovuto cambiare tutto ed assoggettarmi al progetto slavo-comunista di Tito di governare le nostre terre con il terrore e un'allucinante ferocia, leggi foibe, deportazioni, lapidazioni e uccisioni in massa, e poterle, queste terre, annetterle imponendo la loro lingua, i loro costumi, la loro mentalità e cancellare così ogni segno della nostra cultura latina, veneziana, italiana. In una parola, volevano fare una grossa pulizia etnica, come è stata fatta fra le stesse etnie slave negli anni 90. In questo modo potevano riempire i vuoti da noi lasciati con elementi per lo più serbi e bosniaci di decisa fede slavo-comunista. A quanti vanno in quelle terre per turismo, viene raccontato che sì, Roma ha fatto qualcosetta, ma la parte migliore è stata creata dal genio croato, come il bronzo di Lucino, da loro detto addirittura il bronzo di Croazia, mentre il nostro anfiteatro Flavio, il foro e il tempio del divo Augusto, il tempio di Diana, la porta Ercole, l'arco di Sergi a Pola, le strade consolari in Istria, i templi dedicati a Marte e da Nettuno a Parenzo, le varie ville romane a Brioli, a Brioni e a Siparis, per i croati sono bazzeccole. E che dire del periodo veneziano, che una guida a Zara ha ridotto a poca cosa, mentre è durato dal Novecento fino alla caduta di Venezia del 1797, caduta sotto il terremoto napoleonico? Tutte le pietre dell'Istria e della Dalmazia parlano latino, veneziano, italiano. Mi è stato chiesto di raccontare la mia storia di esule dall'Istria e il mio inserimento nella realtà tirolese. Lo faccio volentieri, anche se le mie vicissitudini non hanno nulla di mirabolante. Quando è successo il cosiddetto ribaltone, l'8 settembre del 1943, avevo 22 anni e frequentavo l'Accademia Navale decentrata a Brioni, isole istriane vicino a Pola. Il ribaltone è arrivato improvviso, intorno alle 18 di quel infausto giorno, e tutti gridavano, festanti, la guerra è finita, tutti a casa. Sì, tutti a casa i pochi che hanno potuto scappare dalle grinfie di Tito, appostato al confine orientale, pronto ad invadere l'Istria e far fuori con ogni mezzo gli italiani. La mia permanenza a Pola, sotto l'amministrazione titina, che fra parentesi durò 45 giorni, giorni di passione e di terrore, la mia permanenza, dicevo, fu breve. I nuovi venuti si gettarono subito alla ricerca di chi era stato coinvolto col regime, compresi i servitori dello Stato, carabinieri, guardie di finanza, polizia, eccetera. Sterminati i quali rivolsero la loro attenzione, i titini dico, la loro attenzione a chi simpatizzava per l'Italia. Durante il mio breve periodo a Pola, sotto Tito, mi barcamenai fornendo loro, gratuitamente, ossigeno e acetilene, proprio ossigeno e acetilene, due gas che servono per saldature metalliche, prodotti nella fabbrica dove io lavoravo come chimico per sfuggire alle SS tedesche. Per questa attività noi si riceveva dai nuovi arrivati un piatto di minestra di trippa e pasta. Questa era la paga dei titini. La mia avventura titina durò, come detto, solo pochi giorni, sufficienti però per sapere di essere ricercato dall'OSNA, la polizia politica di Tito, perché avrei dovuto essere inviato in Bosnia, dove, chiuso in un lager, mi avrebbero fatto il lavaggio del cervello per trasferirmi poi a difendere i sacri confini della grande federativa jugoslava verso la Macedonia. Avvalendosi della propusnica e il lascia passare, un lascia passare che avevo ottenuto dalle autorità croate per il mio lavoro in fabbrica, dove c'era scritto "Omo va, omo vien, za biciclon quando vuol", cioè avevo la bicicletta e potevo andare quando volevo. Con questo mi imbarcai sul primo peschereccio in partenza che trovai ormeggiato alla riva e me la filai a Trieste, dove erano già arrivati gli americani. Qui attesi che gli inglesi liberassero anche Pola, dopo i famosi 45 giorni, per ritornare ai patri lari. Finita la tragedia istriana, rientrai nel nido materno a Bolzano, dove la mia famiglia era intanto venuta esule. Da Pola aveva potuto portare via i nostri beni mobili, grazie alla presenza delle truppe inglesi. I beni mobili, invece, che nel nostro caso erano valutati ben 6.000 lire del 1938, ancora oggi il governo italiano, con tanta fatica e in tante mini rate, non è riuscito né a restituire né a pagare. Questa Italia, che noi abbiamo tanto amato e continuiamo ad amare, con quei beni ha pagato i danni di quella guerra che ci ha costretto a migrare esuli per il mondo. A Bolzano, per caso, seppi che la Montecatini, che stava costruendo gli impianti idroelettrici di Castelbello e di Resia, cercava un tecnico da assumere come sorvegliante in seno alla grande società. Mi adattai a fare anche il guardiano del faro, perché ero un ingegnere di primo pelo e allora non si badava tanto né ai contratti né agli orari di lavoro, ma si era desiderosi di imparare a lavorare, accettando ciò che la società ci offriva. In questa mia attività, superati velocemente i primi gradini della scala gerarchica, venni a contatto, grazie alla mia conoscenza di poche frasi di tedesco scolastico, con le amministrazioni locali, sindaci, capofrazione, gli stessi proprietari dei terreni che si dovevano espropriare, e ciò per dirimere le inevitabili controversie fra loro e la società sullo sfruttamento dell'acqua, bene prezioso per i primi e necessario per la seconda. Con loro ho mantenuto sempre un atteggiamento di stima e di rispetto e sono stato ricambiato con altrettanta stima e rispetto. Devo dire che l'abbandono della mia terra, l'Istria, non mi pesa molto, sia perché oggi non la riconosco più come tale e sia perché ho trovato in Alto Adige la stessa mentalità, la stessa moralità, la stessa voglia di fare che inevitabilmente la cultura asburgica ha inculcato nel nostro modo di vivere. Solo oggi, in età non più giovane, una certa nostalgia mi prende se penso alla mia età fiorita, quando, pieno di entusiasmo per la vita alla quale andavo incontro, fiducioso mi tuffavo nel meraviglioso mare istriano. Occorrevo za biciclo lungo le ancora attuali strade romane. Grazie. A lei il brando. Sì. Allora, mi riallaccio a quello che ha detto l'ingegner Soppa, e anch'io faccio riferimento alle bellezze paesaggistiche naturali dell'Istria. Di queste bellezze si legge in qualsiasi libro di memorie, di racconti, perché tutti quelli che hanno scritto su questa terra e su quel periodo hanno in cuore appunto la bellezza del mare, il territorio incontaminato, i piccoli paesi che potevano sorgere dovunque e portavano naturalmente anche le tracce di questa civiltà romana e anche della civiltà veneta. E quindi tutti hanno idealizzato questo paesaggio così come si idealizza di solito anche l'infanzia e la giovinezza. E appunto il ricordo che loro hanno di queste loro terre sembra quasi in una funzione elegiaca e in contrasto naturalmente con quello che invece descriveranno dopo come un dramma, una tragedia che ha colpito moltissima gente. Quindi nelle letture si trovano appunto questi contrasti, il ricordo commosso e infantile quasi per il paesaggio e la bellezza e dall'altra parte invece la sofferenza per ciò che si è lasciato e per le esperienze che hanno vissuto. Ho fatto questa introduzione per dirvi che io in effetti non parlerò di me, delle mie esperienze, ma ho scelto di raccontare quello che si legge in tante monografie di esuli, ma soprattutto di donne esuli che hanno cominciato a scrivere intorno all'84-85, la Marisa Madieri, moglie di Claudio Magris, che ha scritto un bellissimo libro, Verde Acqua. E poi piano piano tutte le altre che probabilmente hanno cominciato a scrivere soltanto dopo che avevano raggiunto un certo benessere e una certa tranquillità sia economica che familiare. E i libri che si sono succeduti sono parecchi, scritti con una semplicità, con una leggerezza, diciamo forse anche con la freschezza tipica di chi non ha intenzione di scrivere un'opera d'arte, ma soltanto di comunicare quello che ha vissuto. E proprio per questo questi libri, di cui magari intanto pian pianino vi farò nomi e autori, titoli e autori, e tanto più sono freschi e ingenui e senz'altro toccanti. Dicevo appunto la Marisa Madieri, anche lei di Pola, vissuta in una famiglia abbastanza agiata, ma soprattutto molto coccolata dai nonni, perché le famiglie di quei tempi e in quei luoghi erano matriarcali, dove c'erano un gran numero di donne, oltre alla mamma a cui erano molto legati, naturalmente le nonne da una parte e dall'altra, le zie ed altri vicini di casa che contribuivano a formare delle famiglie sempre allargate. Allargate per numero, non allargate come si suol dire oggi. E questo rendeva ancora naturalmente il ricordo ancora più dolce, pensare ai luoghi, alla casa e agli affetti che improvvisamente si erano spezzati e si erano lasciati. E diciamo che la Marisa Madieri mi è particolarmente cara non solo per il suo stile leggero e fresco, ma anche perché rappresenta un po' quello che ho vissuto io, la partenza, poi il trasferimento a Trieste e quindi un periodo di soggiorno nel Silos. Questo era un grande caseggiato di costruzione asburgica che precedentemente aveva ospitato il deposito di granaglie o di coloniali, tè, caffè e altri prodotti che venivano d'oltremare. In questo momento questo caseggiato di 3 piani completamente vuoto è stato adibito a campo di raccolta di tutti i profughi che continuavano incessantemente ad arrivare sia dall'Istria che da Fiume, da Zara, da tutte queste città che avevano subito l'invasione di cui hanno parlato i miei amici prima e soprattutto anche gravi, fortissimi bombardamenti. E il primo luogo di sosta e di ricomposizione, diciamo, della famiglia avveniva di solito a Trieste. Ma in quali condizioni? Appunto, questo grande caseggiato formato a 3 piani, appunto, era formato da grandi cameroni che venivano divisi da pareti provvisorie costituite o da cartoni oppure da coperte tese su uno spago e che servivano a dividere una famiglia dall'altra. Erano cioè come dei box, così molto precari, che davano un po' di intimità a ciascuna famiglia. Lì c'era magari un tavolo, qualche suppellettile portata da casa e poi il letto. E la Marisa Madieri racconta per esempio che c'erano dei periodi in cui in questi box molto piccoli avevano collocato quasi 4 letti, in cui dormivano però in 6, la nonna con la nipotina, il papà con un altro figlio e via dicendo. Mancava quindi in questa sistemazione qualsiasi intimità, qualsiasi possibilità anche di comodo, di vita in comune e soprattutto anche di igiene. I bagni, come nelle vecchie caserme, erano in fondo e bisognava percorrere sì e no con la candela un corridoio lungo in fondo al quale c'erano appunto servizi e lavabi. Non c'era neanche la possibilità di cucinare, per cui le donne ad un certo punto, ad una certa ora del giorno, uscivano con la gamella e andavano in un luogo stabilito dove ricevevano il pranzo e lo portavano poi a casa suddividendolo tra i vari parenti. Questo naturalmente è andato avanti per un po' di tempo finché i profughi hanno cominciato piano piano ad allontanarsi cercando naturalmente migliori condizioni di vita. E se la Madieri è andata a Venezia dai suoi zii che l'hanno affettuosamente ospitata prima e messa in collegio poi perché doveva anche frequentare regolarmente le scuole, molti altri profughi invece sono passati di città in città. Ci sono alcuni che sono andati da Trieste a Brescia, poi a Massa Carrara, poi a Latina, poi sono tornati a Massa Carrara, poi sono andati a Cagliari, naturalmente portandosi dietro quelle poche cose in valigie di cartone. Uno dei libri, quello della Nelly da Milani, forse uno dei primi usciti negli anni 90, si intitola proprio Una valigia di cartone. E la protagonista non è Nelly da Milani, ma probabilmente ha ricevuto questo racconto da una sua vicina di casa oppure da una cugina che si chiamava Norma. E la storia di questa ragazza è tipica di quelle zone interne dove la gente viveva di poca agricoltura e molta pastorizia e quindi anche lei, non andando a scuola, si dedicava soprattutto alle capre. Cioè seguiva le capre, le riportava a casa la sera, le mungeva e poi vendeva quel po' di latte a chi si metteva in fila e lo voleva ricevere. Dopo tutto il ribalton, come diceva Soppa, dopo tutto il ribalton della guerra e delle epurazioni e degli eccidi, anche Norma con suo marito e la figlia Esther fuggono dall'Istria, prima Trieste, poi Latina, poi vanno giù a Brindisi, dove trovano però una certa accoglienza, sebbene poi si trovino abbastanza a disagio al confronto con il modo di vivere delle donne brindisine. Figuriamoci, nel 47-48 le donne della Sicilia non erano naturalmente emancipate come loro, come oggi, ma soprattutto non erano emancipate come le donne istriane, fiumane, zaratine, che erano delle donne allegre, vivaci e molto spesso purtroppo anche accusate di essere leggere o altro, insomma, dalla gente del luogo, la quale non li sopportava. Le donne profughe erano viste proprio come delle donnacce e questo lo dice più di una scrittrice nei suoi ricordi. Comunque, siccome Norma, la protagonista di Una valigia di cartone, rimane presto vedova, capisce che deve comportarsi con una addirittura incredibile, sottomettendosi perfino a queste regole così rigide della vita della società di Brindisi. E la prima cosa che deve fare è anche andare a cercare un lavoro e lo trova presso una caserma di ufficiali, di giovani ufficiali, e lì farà soltanto le pulizie, ma sarà così rispettata e stimata da avere addirittura i complimenti del colonnello. e poco tempo dopo riceverà anche la, dal colonnello stesso riceverà la richiesta e, o la domanda insomma di trasferirsi alla stessa caserma o alla caserma dello stesso corpo a Firenze. Per lei questa sarà la liberazione vera e propria, perché Firenze è una città di cultura, una città aperta, piena di movimento, dove lei potrà trovare un lavoro, cioè potrà trovare lo stesso tipo di lavoro, ma addirittura dirà sono diventata capo usciere, cioè quella che comandava alle altre donne delle pulizie, però per quel momento era già qualche cosa. La sua vita finirà proprio a Firenze, tranquilla, una vita di soddisfazione quando avrà visto sua figlia sposata e l'arrivo dei nipotini. Però prima di questa fine, di questo lieto fine, avrà passato appunto per tanti campi di raccolta dove, essendo sola e oltretutto ignorante, come lei diceva sempre, non aveva infatti mai imparato a leggere e a scrivere. E quindi, passando attraverso i campi di raccolta e dei profughi, alla fine arriverà a Firenze e troverà una sistemazione definitiva che veramente la soddisfa. Nelida Milani è questa scrittrice di Una valigia di cartone ed è un personaggio molto interessante, non tanto come scrittrice ma come donna e come studiosa. Lei infatti è tra quelle donne che non sono partite dall'Istria, ma nel vedere la partenza di tutti è rimasta lì, con la vecchia nonna che l'aveva allevata, l'aveva cresciuta, è rimasta lì perché non sapeva dove andare né con chi partire. E intanto appunto aveva scritto questa valigia di cartone, questo libro. E il libro viene letto più o meno in tutta Italia e si comincia a prestare attenzione alle storie dei profughi e soprattutto anche alle caratteristiche di queste donne protagoniste dei libri che tutti avevano ignorato, a cui nessuno aveva prestato ascolto, chissà perché, probabilmente perché i tempi erano duri per tutti quanti, perché come vedremo dopo a Rovereto vengono accusate di portare via il lavoro ai roveretani, ai locali, ma poi anche perché il silenzio delle donne profughe era totale. Sembrava quasi che fossero vergognose di quello che era successo e che si sentissero colpevoli di tutta la loro tragedia e del loro abbandono della patria, l'abbandono, la ricerca della patria Italia e poi soprattutto anche di una nuova sistemazione per sé e per la famiglia. Dicevo, Nelida Milani è molto interessante anche perché di lei si accorge un'altra scrittrice, profuga da Zara. Al momento mi sfugge. Comunque, Anna Maria Mori, già a Roma da qualche anno, e scrittrice e giornalista affermata. Legge il libro una valigia di cartone e cerca di mettersi in contatto con Nelida Milani e tra di loro comincia subito una certa corrispondenza finché Anna Maria Mori si trasferisce per un breve soggiorno a Pola e conosce Nelida, la quale è molto schiva e non vuole apparire, non vuole comunicare niente e al momento l'incontro si riduce a una conoscenza molto superficiale. Più tardi invece si cominciano a scrivere e da questo nasce il bellissimo libro che si chiama Bora, scritto appunto da Nelida Milani e Anna Maria Mori. È bello e interessante per le cose che ci rivelano, ma anche perché il libro procede su due binari. C'è un dualismo continuo tra quella Anna Maria Mori che è partita e che ha avuto varie vicissitudini prima di approdare a Roma e invece Nelida Milani che è rimasta a Pola. E è interessante soprattutto vedere che se noi donne profughe da Fiume, da Pola e da tutta l'Istria abbiamo sofferto e abbiamo avuto un percorso particolare di chiusura e di sradicamento. La stessa cosa però è capitata anche alle donne istriane che sono rimaste, quelle cioè che hanno vissuto lo sradicamento di tutta la loro città, della loro vita, delle loro tradizioni, della loro lingua, della loro scuola, e hanno cominciato a vivere a fianco di questi croati scesi dalle montagne, loro dicevano qualche volta con le papuzze, cioè con le pantofole, con stracci addosso così, e che avevano occupato le case dei siori e che si permettevano di imitare appunto questi signori che erano partiti per salvare la vita e la famiglia. E quindi Nelida Milani appunto è la rappresentante di tutte quelle donne che sono rimaste in Istria e che con molto coraggio hanno affrontato la povertà e la mancanza dei vicini di casa, dei parenti, dei conoscenti. Dice: qualche volta passavo per le strade dove io saltellavo gioiosa e incontrando amici e parenti, e adesso passo da sola in stradine buie, decadenti, dove non incontro nessuno che mi dica neanche ciao. Perché? Perché la città di Pola, che prima aveva 32.000 abitanti, dopo l'esodo è rimasta con circa 2.000 abitanti italiani, mentre gli altri che piano piano hanno occupato piazze, strade, case, erano tutti croati. Anche la scuola che aveva dovuto fare era in croato, perché non era più possibile frequentare una scuola italiana. Comunque, con l'impegno tipico di questa gente, ha proseguito, ha fatto degli studi superiori, è diventata un'insegnante, ha fatto l'università a Zagabria, è diventata un'insegnante di lettere e di storia in quelle terre. E quindi lei ha conquistato una sua nuova identità, ma dopo essere passata attraverso la sofferenza dello straniamento, del sentirsi completamente estranea all'ambiente, alla gente e ai luoghi in cui era cresciuta e vissuta. Mentre per Anna Maria Mori il percorso è stato quello di tutti i profughi giuliani, che più o meno dotati di buona famiglia si adattano, poi cambiano zona, si elevano un pochino e poi, arrivata a Roma, finalmente ha fatto il grande salto dell'università, dello scrivere e naturalmente anche del giornalismo, e oggi ancora si sente molto parlare di lei come conferenziera ogni volta che c'è qualche raduno dei profughi giuliani. I libri appunto che sono scritti, non li voglio esaurire tutti, le donne hanno scritto molto e io mi sono occupata preferibilmente di loro in quest'ultimo periodo. Voglio ancora accennare solamente ai volti di un esodo, questo libro che però era stato già presentato, vero Valeria, almeno 2 anni fa. Ecco, è un libro in cui ci sono 2 presentazioni, uno della Elena Tonezzer del Museo di Storia Italiana, storia del Risorgimento di Trento, e un'altra bellissima introduzione di Giorgio Mezzalira, che qui non vedo, ma dopo gli farò le congratulazioni perché viene dopo. Ecco, e oltre alla presentazione storica abbiamo interviste fatte a 3 donne che dopo tutto questo girare per l'Italia sono arrivate a Rovereto. E una è Miriam Brumat, che però veramente è sul lago di Garda, ex insegnante, adesso in pensione, non mi soffermo su questo. La seconda è Egea Hafner. E non so se voi ricordate quella piccola gioielleria che c'era in Corso Libertà al posto di Horus. Lì stavano i signori Hafner, esuli appunto da Pola, e arrivati fortunosamente qui avevano ripreso l'antica attività di Pola, avevano messo su una gioielleria e orologeria. Però dopo aver trovato questo piccolo ambiente per impostare la propria attività, non avevano trovato casa e nel retrobottega avevano sia un fornello per cucinare che alcuni materassi che tiravano fuori la sera per poter dormire. E sembra che anche tra il banco e la vetrina mettessero uno o due materassi, probabilmente tiravano giù una tenda o qualche cosa. Questa è stata la storia iniziale, che poi un po' alla volta si è però evoluta e con la concessione di un piccolo appartamento e poi invece con qualche cosa di più grande dove vissero abbastanza bene. E l'altra testimonianza è quella invece di Anna Maria Marcozzi Keller, che attualmente è la presidente del comitato Giuliano Dalmata di Rovereto. La sua storia invece è molto più dolorosa. I suoi genitori, venendo sempre da Fiume, e dopo vari tentennamenti decisero quindi di partire e arrivarono a Rovereto, dove trovarono proprio intorno a sé il vuoto, la freddezza di chi non li voleva accogliere, e sentirono il disagio profondo di un ambiente che li rifiutava completamente. Loro erano in cinque, tre bambini. Anna Maria era la più grande, Anna Maria Marcozzi era la più grande, e i genitori. E diciamo tra l'altro che tutti questi profughi che partivano dalle grandi città dell'Istria o della Dalmazia avevano una loro professionalità, erano persone che avevano studiato, erano avvocati, professionisti, altrimenti commercianti, così, e arrivando invece nei luoghi di esilio si dovettero adattare a qualsiasi lavoro pur di portare a casa qualche soldo e mantenere la famiglia. Così anche il papà di Anna Maria Marcozzi si adattò a fare l'operaio in una tabaccheria, no scusate, nella fabbrica dei tabacchi, fabbrica di tabacchi di Rovereto, e tirò avanti così. L'alloggio era in un appartamento che dividevano con altre sei famiglie e quindi un disagio enorme. Noi ormai non siamo più abituati a queste cose, forse non possiamo neanche immaginarlo. Ecco, e poco tempo dopo morirà il padre, più tardi la madre, e allora la gente di Rovereto veramente si sveglierà e dirà: dobbiamo aiutarli. Però prima hanno trovato intorno a sé il rifiuto totale, molti insulti, tra cui sempre la parola fascisti, tornatevene a casa vostra. Sembra che anche il sindaco li abbia insultati dicendo: ma perché siete venuti qui? Noi non vi abbiamo chiamati, tornatevene a casa vostra. Sono ricordi amari, appunto, che col passare del tempo si attenuano, però alla fine tutti ce l'hanno fatta. Tutti, o perché già preparati negli studi, oppure perché allenati da quella che era la vita dell'Istria, della Dalmazia sotto gli Asburgo, sotto gli austriaci, sotto l'impero austro-ungarico, tutti hanno dimostrato una tenacia, una capacità di sopportare e di reagire, per cui al giorno d'oggi possiamo dire che tutti ce l'hanno fatta. Nella fine dell'intervento della professoressa Vignorini, visto che l'assessore Cigolla è venuto presenziare. No, guardato di qua. Avevo tante robe di lì. Questo che mi diceva tanto. Onorevole Benussi, sono venuto prima di tutto per portare il saluto della provincia autonoma di Bolzano, per rendere omaggio a quello che rappresenti in questa triste vicenda che ha visto tanti guai, tante scene orribili. L'abbiamo sentito dalle parole dell'ingegnere, non di meno dalla parte. Non sapevo che è la mia capa del condominio, per questo che la conoscevo sotto questa veste, allora ho tentato. Sì. Volevo comunque esternarvi un brevissimo messaggio. Tutte queste cose al di là che ci lasciano la mare in bocca naturalmente, però per chi pratica la cultura, per chi la vive a fior di pelle, per chi è in una terra multiculturale, non può che lasciare un segno di profonda efficacia, e cioè errori ci sono stati, ci sono ancora, vengono purtroppo fatti troppo spesso, ma perché li vogliamo sempre ripetere? Chiediamoci perché qualche volta non vogliamo evitare di fare sempre gli stessi errori. Inevitabilmente la nostra natura, naturalmente fragile, presenta purtroppo limiti, difetti, e inevitabilmente caschiamo in questi errori. Ma se animati da sante intenzioni, come credo e sono sicuro la vostra presenza lo testimonia, se non sareste qui, tutti insieme, se l'obiettivo è di trovare il cosiddetto bene comune nella comunità in cui ci troviamo, a prescindere dalle provenienze, però con i bagagli delle nostre provenienze, quindi portiamo naturalmente tutta la ricchezza della nostra multiculturalità, se in questa ottica vogliamo effettivamente praticare questo bene comune. Io ve lo lascio come messaggio, e se la storia è maestra di vita, a maggior ragione. Cerchiamo di capire da questi esempi qual è il bene comune. Cerchiamo di perseguirlo in ogni momento della nostra vita, con tutti gli atti e fatti della vita quotidiana, e questo sarà la più bella cosa che riusciremo a costruire in Alto Adige. È inevitabile che la multiculturalità porta tante cose diverse. Le cose diverse, se non si confrontano, se non interagiscono mediante il confronto, inevitabilmente vanno in rotta di collisione, e questo la cultura non ce lo consente, o perlomeno noi non lo vorremmo. Cerchiamo pertanto costantemente, e ringrazio tutti voi, naturalmente gli oratori in particolare, e tutti gli istriani, che naturalmente gli istriani, dalmati e fiumani, da tutto quello che hanno sofferto, da tutto quello che hanno patito, cerchiamo effettivamente di capire e di portare a casa il sommo principio: è sempre meglio la pacifica convivenza, pur con tutti i limiti e difetti che possiamo avere. Perché quando non c'è più la pacifica convivenza, inevitabilmente succede di tutto e di peggio. Vi ringrazio, ogni bene per questo futuro, e soprattutto auguriamoci sempre, con atti e fatti di vita quotidiana, cerchiamo di perseguire il bene comune. Auguri. Grazie.